1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. E allora siamo qui alle 7:20 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali con voi, per voi, perché anche se 25 aprile è festa, magari ci state ascoltando o dal bar o dalla cucina di casa o dal letto, da sotto le coperte, viva! E allora siamo qui in diretta, vi ricordo che parleremo di politica anche oggi, con noi ci saranno Piero Stellino alle 8:15, il segretario della FIOM Landini, il senatore del PD Corradino Mineo. Perché? Perché oggi consultazioni rapide, ce la farà Enrico Letta a formare il governo? Non è mica detta, perché a leggere i giornali ci sono già le condizioni, i paletti messi dai partiti. Verrebbe da dire il monito di Napolitano rischia di non essere stato veramente capito. In ogni caso, andiamo a sfogliare i giornali in edicola. Dal Sole 24 Ore iniziamo con il titolo di apertura: governo di servizio, la sfida di Letta non sarà un esecutivo ad ogni costo. Per il Corriere della Sera, larghe intese, ci prova Letta. Repubblica, governo Letta, battaglia sui ministri. La Stampa, governo Letta, il nodo PDL. Il Messaggero, Letta, l'ostacolo dei 18 ministri. Libero, un lettino per il PD, una politica da psicanalisi. Il Giornale, IMU per sempre, Letta forse. Vedete che si mettono già in dubbio, ancora non è nato il governo e forse, scrive il Giornale, non nascerà mai. Il Fatto Quotidiano punta su questo titolo: Napolitano nomina il nipote di Gianni Letta. È un titolo molto molto forte, un po' irriverente. Per il Manifesto invece il titolo d'apertura è Letta a tre piazze. Avvenire, tocca a Letta, partiti alla prova, responsabilità. L'Unità, Letta ci prova, il PDL ostacola. Questa è la visione dell'Unità in prima pagina. Prima però di tuffarci come al solito nella lettura di quella che è l'attualità politica stretta, anche questa è attualità politica e oggi ho ben due notizie da mani sul volante. O mani sul manubrio, qualcuno mi ha detto io l'ascolto andando in bicicletta, allora mani sul manubrio oppure andando in moto, mani sul manubrio, mani appoggiate le tazzine del caffè perché dobbiamo andare in Basilicata dove è scoppiato l'ennesimo bubbone solito, regioni, rimborsi, soldi pubblici, spese loro, soldi nostri, eccolo qui. Arresti in Basilicata, si dimette il governatore, mancava la Basilicata, forse ormai con questa abbiamo fatto tutte le 20 regioni, e cioè la questione dei rimborsi dei consiglieri regionali, un po' strani, diciamo così, e qua c'è sempre di tutto, gomme da masticare, o pneumatici, cresime, battesimi, viaggi, sigarette, tutte rimborsate a spese nostre ovviamente. Nelle ricevute, scrive per esempio Fiorenza Sarzanini a pagina 19 del Corriere della Sera, feste di cresima e soprattutto i politici ubiqui. Deve avere certamente il dono dell'ubiquità, per esempio, il consigliere regionale Antonio Autilio. Siamo in Basilicata. Dal 5 all'8 luglio ha trascorso una vacanza a Nizza con la sua famiglia, lo dimostrano le ricevute. Ma altre ricevute dimostrano che proprio in quei giorni ha pranzato, cenato al ristorante La Braceria di Marsico Vetere in provincia di Potenza. L'ubiquità. Era a Nizza ma anche in provincia di Potenza. Del resto anche per i viaggi deve aver avuto lo stesso problema. Il 18 febbraio 2011, mentre era sul treno da Roma Termini ad Arezzo, risulta aver passato anche il casello autostradale di Salerno. Non è l'unico. Alla regione Basilicata, scrive il Corriere, funzionava proprio così: si stava in un posto e si risultava in un altro, sempre con i soldi pubblici. Ieri arresti, ieri si è dimesso anche il presidente della Basilicata, Vito De Filippo, impossibile andare avanti. Per carità, dice il Corriere, complessivamente le casse pubbliche, si parla di 170.000 euro, forse siamo lontani dai conti dello scandalo, per esempio, della regione Lazio in termini di soldi, ma è il principio, è in infatti Guido Ruotolo sulla Stampa è durissimo nel suo articolo dal titolo Basilicata la grande abbuffata, nei rimborsi anche la festa di Cresima. Miserabili, così inizia l'articolo Ruotolo, sono straccioni che lucrano sul niente, su una ricevuta da 9 euro, falsificano le fatture di pranzi e cene aggiungendo zeri, si inventano missioni chilometriche per farsi pagare la benzina, pernottamenti in albergo con signora, incontri pubblici istituzionali inesistenti, si fanno rimborsare frutta e verdura per l'importo di 9,50 euro, 2 CD-ROM, un pernottamento al grande albergo di Potenza con fattura da 80 euro per lo scrittore Marcello Veneziani. Truffa, peculato, questo è il capo di imputazione per un assessore e due consiglieri regionali finiti ieri ai domiciliari. Ma poi ci sono altri casi miserabili, e per esempio c'è la festa di Cresima, la festa di Cresima di una persona, del nipote di una persona, di un consigliere regionale. Oppure c'è la festa di compleanno di un altro consigliere, adesso poi i nomi qua tra tutto l'elenco me li sono anche persi, ma c'è sicuramente Nicola Pagliuca, ha presentato ricevute di alberghi alla capitale dove ha pernottato in dolce compagnia, ha preteso il rimborso di 32,80 euro per l'acquisto di 2 CD-ROM. Oppure la consigliera IDV che viene dall'Udeur, Rosa Mastro Simone, approdata all'IDV, secondo i numeri si è messa in tasca 12.193 euro indebitamente, rimborsi perfino dal panificio, e ha il dono dell'ubiquità, riuscendo a consumare caffè o a pranzare in ristoranti diversi. Oppure l'assessore PD Vincenzo Edoardo Viti, considerato secondo il Corriere della Sera un po' lo specialista, secondo il Sole 24 Ore lo specialista di tutto questo, Ivan Cimmarusti, siamo sul Sole 24 Ore a pagina 14, era un po' considerato un vero e proprio specialista secondo il GIP nell'allegazione di spese di ristorazione e non solo, assolutamente non sostenute, nel falsificare ricevute fiscali per nascondere la reale causale. Per gli investigatori avrebbe intascato con questo sistema 18.566 euro. Miserabili, dice Guido Ruotolo sulla Stampa, straccioni che lucrano su scontrini da panificio e ortofrutta da 9,50 euro. Anche questa è la politica italiana, per la quale ci vorrebbe veramente non la pulizia. La pulizia non servirebbe neanche più. Straccioni e miserabili, questi due aggettivi di Guido Ruotolo sulla Stampa mi piacciono alquanto. Tenete sempre le mani sul volante, cari ascoltatori, o sul manubrio, o dovunque siano, per stare tranquilli, perché le notizie riguardano anche l'ex tesoriere della Lega Belsito, ve lo ricordate, è stato ieri arrestato, secondo Roberto Galullo e Angelo Minguzzi sul Sole 24 Ore pagina 14, voleva Banca Arner, e i PM dicono spunta uno yacht acquistato da un prestanome di Bossi Junior, tornano i figli di Bossi, in questo caso è il figlio, non Renzo, ma spunta uno yacht da 2,5 milioni di euro, e ci sono indagini sull'imbarcazione intestata a un prestanome e potrebbe essere tutto relativo a uno dei figli, vale a dire a Riccardo Bossi, c'è il primogenito di Bossi dietro lo yacht da 2 milioni e mezzo, come racconta Paolo Colonnello a pagina 19 della Stampa. Spunta anche una Porsche per l'ex sottosegretario Belsito, sulla quale c'è l'indagine della procura. Altro che canottiere pigiami, scrive Colonnello, auto di lusso al trota, falsi diploma in Albania, ormeggiato in Costa Azzurra, talvolta segnalato però pure a Chiavari. Ecco spuntare tra le spese pazze dei rimborsi elettorali della Lega gestione Belsito anche uno yacht da 2 milioni e mezzo intestato grazie a un prestanome al figlio maggiore di Umberto Bossi, Riccardo, detto il pilota. Vero? Falso? La circostanza emerge da un'intercettazione nell'inchiesta che ha portato in carcere l'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito e altri tre personaggi a lui legati in un incessante lavorio di appalti e soldi in nero che porta lontano, sfiora vicende come quelle del Monte Paschi Siena, ma anche la gestione di colossi pubblici come Fincantieri, di cui Belsito fu anche uno degli amministratori. Anche per Repubblica, arrestato Belsito, bancomat del Senatur, e spuntalo mega yacht da 2,5 milioni a Bossi Junior. Ecco, in questo clima prendiamo un attimo di respiro e cerchiamo di capire che potrà fare Enrico Letta. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci qui allora a capire se Enrico Letta, nominato, incaricato di formare un governo dal Presidente della Repubblica Napolitano, ce la farà oppure no. E non è detto, cari ascoltatori, perché intanto a guardare la giornata di ieri, Napolitano ha detto in pratica era l'unica strada possibile. Il capo dello Stato, come racconta La Stampa a pagina 6, con Antonella Rampino, non è arrivato alla mattina con la nottata di dubbi. Il dubbio era da sciogliere tra Giuliano Amato e Enrico Letta. Ha sciolto il dubbio quasi subito, poi alle 8 del mattino ha chiamato e convocato Enrico Letta al Quirinale e ha detto appunto era l'unica strada, l'unica soluzione possibile, perché come racconta anche Marzio Breda a pagina 2 del Corriere della Sera, la svolta è stata proprio nella notte, troppe pregiudiziali su Amato. Alla fine Giorgio Napolitano, scrive Marzio Breda, ha messo sul tavolo la carta di riserva comunque forte, ben inteso. Enrico Letta c'è stato costretto dopo che il PD gli aveva fatto arrivare messaggi contraddittori su Amato, indizio di umori malmostosi sui quali si rifletteva forse anche l'ansia di qualche vendetta interna da consumare. Insomma, Amato per Napolitano si sarebbe imposto come il più adatto a guidare un governo a minore intensità politica, più svincolato dai partiti, chiamiamolo pure un governo del presidente da tenere a battesimo in fretta. Ma incaricando il vice segretario del PD anziché il dottor Sottile sarebbero cadute le pregiudiziali della Lega, per esempio. Insomma, vari motivi, vari malumori anche che hanno convinto Napolitano a dire Amato no, meglio Enrico Letta. Letta, un governo di servizio al paese, questo è il titolo che trovate a pagina 3 del Sole 24 Ore nell'articolo di Emilia Patta. Questa è stata la prima dichiarazione, aggiunta alla dichiarazione non so se si riuscirà a formare un governo, cioè non farò un governo a ogni costo. Perché è partito subito il toto ministri e sono partite subito le risse sottobanco tra partiti, chi alza l'asticella, chi la vuole abbassare, chi vuole un governo politico con ministri politici e questo sarebbe il Popolo della Libertà, chi vuole invece un governo un po' più grigio, sobrio, lettiano si può dire, e questo sarebbe il Partito Democratico. Troveranno una soluzione? Il che vuol dire, bisogna mettere ministri politici di partiti o bisogna mettere ministri anche dei tecnici? Secondo il Corriere della Sera, una delle condizioni posta da Enrico Letta sarebbe proprio quella di non volere ex ministri del PDL e anche del PD nel proprio esecutivo. Marco Galluzzo lo scrive a pagina 3, sembra che una delle condizioni posta dal premier incaricato sia proprio quella di non avere nella sua squadra ex ministri del PDL, probabilmente anche del PD. Racconta un po' tutta la giornata di Enrico Letta, quella telefonata alle 8 del mattino, poi da solo in macchina al colle, gli auguri dello zio Gianni, l'incontro con i vertici di partito, insomma una giornata così, ma intanto impazza appunto il toto ministri. Intanto toto ministri che leggi, Massimo D'Alema che trovi, questo ve lo dico cari ascoltatori. Per esempio il Sole 24 Ore lo mette agli esteri o all'interno, ma all'interno è partita una sfida perché si vorrebbe confermare Anna Maria Cancellieri secondo il Partito Democratico, che avrebbe fatto molto bene, ma il Popolo della Libertà, racconta Repubblica, fa notare che Anna Maria Cancellieri ha sciolto per mafia il comune di Reggio Calabria, il Popolo della Libertà, e poi insomma non è molto gradito, e allora Repubblica dice vorremmo Schifani agli interni, e allora secondo Repubblica è partita già una sorta di rissa politica su questo. Insomma, sono passate 48 ore da quando Giorgio Napolitano le ha cantate dure ai partiti in Parlamento nel giorno del giuramento dicendo questa è l'ultima opportunità, dovete fare così e basta, che sembra che sia tutto dimenticato. Sono già alle, come ho scritto su Twitter in maniera un po' brutale, se stanno già a scannare per i ministeri, blitz contro la cancellieri, il PDL vuole Schifani e scoppia il caso Viminale. Eccolo qui, Liana Milella su Repubblica, la colpa della cancellieri, colpa tra virgolette, sciolti troppi comuni vicini al centrodestra. Questo sotto traccia sarebbe il motivo per cui il PDL non vuole la cancellieri confermata al Ministero dell'Interno. E poi il Toto Ministri, per esempio, guardiamolo sul Sole 24 Ore, l'economia pare Piercarlo Padoan, ma anche Salvatore Rossi o Fabrizio Saccomanni. Poi c'è Massimo D'Alema, gli esteri o all'interno, Maurizio Lupi, sviluppo infrastrutture, Angelino Alfano viene accreditato per vice premier, o così come anche Renato Schifani viene dato per vice premier, ma in realtà il Popolo della Libertà lo vorrebbe all'interno. Luciano Violante è il nome più accreditato per giustizia o riforme. Carlo Della Ringa rispunta al welfare, era già spuntato per la verità quando ci fu da fare il governo dei tecnici. La cancellieri viene data all'interno, ma ripeto, ognuno ha la sua squadra. La Stampa verso una squadra con 18 ministri, Fabio Martini, Amato che potrebbe essere all'economia, non ce l'ha fatta da premier ma potrebbe essere rispolverato qui, Franceschini quello contestato che dovrebbe entrare nel governo secondo la Stampa, poi Patroni Griffi potrebbe essere sottosegretario da ministro alla pubblica amministrazione. Monti, ho letto questa frase sulla Stampa, Monti vuole il Ministero degli Esteri, vuole, ma vabbè, insomma, questo vuole mi è parso un po' sgradito e sgradevole. Del Rio potrebbe entrare come esponente del PD renziano, Brunetta potrebbe tornare ministro, ma bisogna capire se il veto di Enrico Letta è appunto di non volere ex ministri in questo governo. Insomma, oggi sarà una giornata di fibrillazione, di consultazioni da parte di Enrico Letta per cercare di capire, d'altronde bisogna fare presto. C'è stata certamente una telefonata tra Berlusconi ed Enrico Letta, lo scrive anche Libero a pagina 9, telefonata a Cavaliere Letta sarà dura. Salvatore Dama racconta e Berlusconi, che nel frattempo è volato negli Stati Uniti a Dallas per una commemorazione in cui il protagonista è l'ex presidente americano Bush, la George Bush Presidential Library, la biblioteca museo voluta dall'ex presidente degli Stati Uniti, e ci sarà anche Obama, Bush Senior, Bill Clinton, Tony Blair, José María Aznar. Insomma, domani dovrebbe tornare Berlusconi a Roma. E allora oggi che giornata sarà? Beh, è giornata nella quale Berlusconi è partito dicendo a Letta sarà dura. Le condizioni poste dal Popolo della Libertà sono un governo politico, quindi con politici nei ministeri chiave, come abbiamo sentito anche nel giornale radio dire Renato Brunetta, e poi Berlusconi dice anche togliere subito l'IMU al primo Consiglio dei Ministri, d'altronde è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale del Popolo della Libertà. Vabbè, ci sono anche tante analisi su Enrico Letta, chi è Enrico Letta, brutale è il Fatto Quotidiano, che lo elegge nipote di Gianni Letta, cioè così viene identificato, Napolitano nomina il nipote di Gianni Letta, questo è il titolo di apertura. Graffiante anche, io vabbè risparmio le elegie, ecco, dico i titoli e le cose un po' di taglio, un po' graffianti. Graffiante anche Iena, Riccardo Barenghi sulla Stampa pagina 3, meglio, dicono che Letta fosse il meglio che si poteva trovare, pensa agli altri. Ecco, questo è Iena sulla Stampa a pagina 3. C'è già chi tuona contro il governissimo, per esempio Pippo Civati del Partito Democratico, che in due interviste, una a Caterina Perniconi sul Fatto Quotidiano e un'altra che ho trovato sul Manifesto, che adesso si è nascosto, ma è qua tra i vari giornali. Comunque Pippo Civati dice io il governissimo non lo voto. Ecco, è spuntato anche il Manifesto con l'intervista a Pippo Civati fatta da Daniela Preziosi. Dice al Manifesto Civati così ribaltiamo la linea politica e la storia futura del centrosinistra. Ho detto che il governo Letta mi preoccupa, sì, perché noi del PD stiamo sottovalutando il significato politico della scelta di fare un governo con Berlusconi, una scelta che tocca profondamente le coscienze democratiche, rimbalta l'impostazione che ci siamo dati fin qua e in più. di un congresso, non è che in un fine settimana possiamo prendere la decisione di cambiare la storia del centrosinistra a prescindere da quanto durerà il prossimo governo. Siamo il partito della settimana scorsa, io non lo capisco più. Così Pippo Civati, insomma, lui interpreta un po' i vari malumori all'interno del PD. Anche Rosi Bindi, che aveva detto Enrico Letta no, è bravo ma non è il momento. Cosa ha fatto ieri Rosi Bindi? Intervistata dal Corriere, qualche battuta dice: gli ho mandato un SMS dicendogli auguri, è bravo, ma ribadisco, è un errore. Eccolo lì, si torna a impallinare da parte di qualcuno, un esponente del proprio stesso partito. Ce la farà in tutto questo clima Enrico Letta a formare un esecutivo? Chissà, chissà, riprendiamo dopo il traffico. E allora vi riaccolgo con questa domanda. I dubbi sono diversi sulla possibilità che Enrico Letta ce la possa fare, perché sono partiti subito i veti incrociati. Guardate per esempio sul giornale, ovviamente giornale da leggere con attenzione perché è vicino a quello che sono gli umori nel centrodestra, e quindi Silvio Berlusconi. Laura Cesaretti a pagina 3: Letta ci prova, strada già in salita, il premier incaricato media tra le condizioni del centrodestra, i veti dei democratici, oggi ci saranno le consultazioni. Io apro una parentesi, ma davvero mi immagino voi italiani dopo il monito di Napolitano, dopo che è andato lì a dire questa è l'ultima possibilità, non avete fatto nulla, non avete fatto le riforme, ora si fa così o basta, pensate se non ce la si dovesse fare a formare un governo, eh? Vi vedo già lì, ma cosa ne pensate di questa classe politica a questo punto? E però ripeto, non è per nulla detto, perché tutto si gioca sulla scelta dei ministeri e sulla possibilità che siano dei ministri più politici o meno politici. Qualcuno, come Libero, come Il Fatto Quotidiano, tuona anche contro Giorgio Napolitano, che ieri ha fatto questo appello ai mezzi di informazione. Cari mezzi di informazione, La Stampa, giornalisti, cooperate in questo clima di tensione, fate in modo che tutto sia responsabile, che il momento è difficile. L'appello alle forze politiche allargato ai giornali: dovete favorire la distensione, non rinfocolare le tensioni. Qualcuno lo legge già come una mordacchia che Napolitano vuol mettere sulla stampa, un po' come racconta Libero quando è successo, quando è stato nominato Mario Monti. Ecco per esempio Franco Bechis, vice direttore di Libero, racconta: Re Giorgio precetta La Stampa, le critiche non sono previste. Sentite Bechis che la prende da lontano. Quando nell'aprile 96 Romano Prodi vinse le elezioni, fu invitato in Rai a Mixer da Giovanni Minoli, che lo presentò così: il buon professore, il manager, il politico, l'uomo delle speranze on the road e dell'antitrust, del liberalismo temperato e del federalismo fiscale, l'antidivo per eccellenza, il leader che alle tele risse preferisce le tele riflessioni, sorriso rassicurante, bonario e sereno, a tratti frutto di turbamento, spesso il risultato di un ragionamento, gli occhi roteanti e morbidi parlano con le pupille, dialogano con le sopracciglia e comunicano col cristallino. Insomma, milioni di uomini e donne, scrive Bechis, nel giorno di San Valentino non sono stati capaci di vette simili nei confronti della persona di cui erano innamorati. Per ritrovare il modello Minoli sarebbe stato necessario attendere 3 lustri, e nel novembre 2011, all'arrivo a Palazzo Chigi di Mario Monti, eccolo qui che Giorgio Napolitano, a quell'epoca dell'Oden, dell'Unica Virtù d'Italia cantata su stampa e TV, la sobrietà deve avere lasciato anima e cuore. Per questo ieri l'appello, ancora dice Libero, vuole un bis del coro di lodi a Monti. È così? Va, metterla mordacchia forse è troppo, però a qualcuno l'appello di Napolitano cooperate alla stampa non è molto piaciuto. Dall'altra parte, unica forza d'opposizione che pare oggi non andrà neanche in piazza per le celebrazioni del Movimento 5 Stelle del 25 aprile è il Movimento 5 Stelle, che deve fare i conti anche con una situazione un po' di difficoltà. Perché cosa? C'è stato un hackeraggio e quindi un intrufolamento, hanno rubato, pare, anni di mail di alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle, con il rischio che ora tutto possa essere pubblicato. La notizia l'ha data per primo l'Espresso, E c'è posta per i 5 Stelle, gli hacker e il panico per le mail dei due guru. Pagina 9 del Fatto Quotidiano, c'è stato un attacco informatico che ha violato le caselle di 78 parlamentari, migliaia di messaggi già pubblici. Bene, prendetevi 4 anni della mia vita, così Giulia Sarti, 26enne, onorevole del Movimento 5 Stelle, sale le scale del Palazzo dei Gruppi furibonda, è una delle persone che è stata hackerata, come si dice in gergo, pare che 7.655 mail che ha scambiato da novembre del 2007 fino a giovedì scorso siano in mano a sconosciuti hacker che hanno violato questo. Ovviamente c'è anche il terrore, soprattutto, scrivono Valerio Cattano e Paola Zanca, sul fatto che possano essere pubblicate anche delle mail dei guru. Per esempio c'è questa domanda: se ha scritto anche Casaleggio e se venissero pubblicate delle mail? È una cosa privata, una cosa gravissima, però succede, è successo, le intercettazioni, e se venissero pubblicate delle mail in cui Casaleggio scrive qualcosa? E questo è un po' il terrore all'interno del Movimento 5 Stelle. Anche su La Stampa, Andrea Malaguti: Movimento 5 Stelle sotto attacco hacker, pubblicheremo le vostre mail, violate le caselle di posta elettronica dei parlamentari che dicono è un atto di violenza. Ovviamente molti dicono non abbiamo nulla da nascondere, eccetera, però insomma è tutto molto molto preoccupante. Che dire, abbiamo ancora 2 minuti, se vi interessa la puntata 2 del Il divorzio più famoso, quello tra Berlusconi e Veronica Lario, sappiate che in appello Veronica Lario ha avuto più o meno ragione. Tutto confermato. Dovrà dare 3 milioni di euro al mese Silvio Berlusconi a Veronica Lario. 3 milioni di euro al mese. Cifra definita da lui abnorme. Beh, la cifra è molto alta. 3 milioni al mese di alimenti all'ex moglie Veronica Lario, così titola Repubblica. Berlusconi ha torto, dia i soldi a Veronica. E quindi c'è il no dei giudici alla sospensione dell'assegno di 3 milioni, ogni mediazione è fallita e voilà, insomma, 3 milioni al mese non sono mica male. L'alpino Peter Bescapè storce la bocca e dice: a me quasi quasi farebbero anche comodo un mesetto di alimenti di Silvio Berlusconi. Vabbè, chiudo con una notizia pubblicata da Repubblica che riguarda il Papa Francesco. Il retroscena a firma Paolo Rodari, è un vaticanista, è una cosa che riguarda sicuramente centinaia di migliaia di italiani, forse anche milioni di persone di tutto il mondo, di fedeli. La sfida sulla famiglia, racconta Repubblica, è di Papa Francesco, che vuole trovare una soluzione per dare la comunione ai divorziati. In piedi in cerchio a mo' di raduno scout, scrive Rodari, così Papa Francesco ha ricevuto in questi giorni diversi vescovi italiani in visita, dalle loro voci una richiesta esplicita: trovare soluzioni per i divorziati risposati che oggi non sono ammessi a ricevere l'Eucaristia. Francesco ha ascoltato in silenzio e poi, ricevendo in udienza sabato scorso Monsignor Paglia, capo del Ministero Vaticano che si occupa di famiglia, ha girato a lui la richiesta dei vescovi. Ecco, questa è la retroscena di Repubblico, molto interessante perché riguarda, ripeto, milioni di fedeli in tutto il mondo. Papa Francesco starebbe studiando questo dossier delicato per la Chiesa della comunione ai divorziati risposati, la possibilità di dare anche a loro la comunione, visto che ora come precetto è vietato. Vi lascio così al giornale radio, ci ritroviamo alle 8:15 per parlare con gli ospiti di politica. Ce la farà Enrico Letta? Oh, i microfoni sono aperti, 800 24 00 24.